Nell'incavo del ginocchio, un fruscio di falena alla zanzariera e sì, amore mio, un puntino luminoso sull'ecometro è campanellino con la tossetta e due volte perderò l'onore e le stelle saranno confitte come puntine nella notte. Sì, io, sì, due chioccioline all'incavo del ginocchio che accendono falò simili a ciglia che sfregano, sì, come pietrina d'accendino bic.